Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo a parlare di storia perché vi presento subito un libro che riguarda un avvenimento che cadde il 29 maggio del 1176, quindi siamo alla vigilia dell'anniversario. Si tratta della battaglia di Legnano. Quello fu l'epilogo dello scontro tra l'imperatore Federico Barbarossa e la Lega Lombarda che raccoglieva i comuni italiani. Lo scontro fra l'imperatore e i comuni era stato lungo, era durato tra il 1154 e il 1183 e quella battaglia fu appunto il momento decisivo, anche perché rappresentò una vittoria inaspettata per la Lega che costringerà poi Federico Barbarossa ad aprire delle trattative che avrebbero portato alla pace con le città lombarde, una pace siglata a Costanza nel 1183 che segnò la grande vittoria dei comuni. Quella vittoria, la vittoria di Legnano, perciò sarebbe entrata tra i miti fondanti della nazione italiana, di cui è testimonianza anche l'opera di Giuseppe Verdi. E dopo le note di Verdi, allora veniamo al libro che si intitola Legnano 1176, una battaglia per la libertà. È stato scritto da Paolo Grillo, che è docente di storia medievale e delle istituzioni militari a Milano, e pubblicato dalla Terza, 242 pagine, 18 euro. Nel libro l'autore ricostruisce il clima, gli antefatti, i protagonisti, a partire dall'imperatore e naturalmente da Alberto da Giussano, che fu l'eroe famosissimo di quella battaglia, ma che probabilmente non esistette nemmeno, anche se passò alla storia come colui che guidò le truppe comunali. In realtà il comandante sarebbe stato Guido Dall'Andriano, che era console a Milano. E poi nel libro si descrive la battaglia, le conseguenze e infine appunto la costruzione del mito. Un mito controverso, come dimostra ancora oggi l'appropriazione da parte della Lega di un movimento storico che viceversa l'Ottocento salutò come la premessa del risorgimento e dell'unificazione italiana. Per questo, conclude l'autore, Legnano rimane un mito plurivalente che consente molteplici chiavi di lettura, ancora ammantato di sentore risorgimentale, ma anche utilizzabile da un partito dai chiari connotati anti-unitari. Forse si tratta di un paradosso, forse semplicemente la prova della vitalità di un evento che, proprio per il suo essere irriducibile a facili schematismi interpretativi, non cessa di porci interrogativi sulle radici della nostra identità nazionale. Veniamo, dopo quella di Federico Barbarossa, a un altro impero molto più vicino a noi, che è l'impero britannico. E vi presento perciò il libro di Philip Levine, che è uno studioso americano, L'impero britannico, pubblicato dal Mulino, 294 pagine, 25 euro, tradotto da Maria Luisa Bassi. Incomprensibile davvero la storia della Gran Bretagna se non si valuta che cosa rappresentò la pagina imperiale, che non fu una pagina né accidentale né incidentale, scrive l'autore. E quindi il libro esamina appunto la parabola di questo periodo, dalla fine del Cinquecento fino al crollo dell'impero, descrivendo la storia di questa lunga pagina e soprattutto delle istituzioni cui diede vita, dello stile di governo di Londra e naturalmente del lungo processo di decolonizzazione. Lo strumento principale di quell'impero, dell'impero britannico, fu la marina inglese, che è presentata in un libro di un grande storico americano, Paul Kennedy, che pubblica con Garzanti Ascese e declino della potenza navale britannica, tradotto da Roberto Merlini, 534 pagine, 32 euro. Questo è un classico del grande storico americano che premette a questa edizione una nuova prefazione nella quale egli pone un parallelo tra l'impero britannico e quello americano e in particolare tra le due marine. Secondo Kennedy, la posizione strategica complessiva del suo paese è meno sicura di quella della marina per l'eccessivo logoramento dell'apparato militare e poi, scrive Kennedy, per la vecchia nemesi che attende la potenza navale, cioè la debolezza economica e fiscale. Il deficit federale e statale, il cronico squilibrio della finanza pubblica sono tutti elementi che prospettano una notevole precarietà, scrive, nella conservazione dell'attuale egemonia americana nel lungo periodo. E proprio per la posizione egemonica assunta per più di due secoli dalla Gran Bretagna, la ricostruzione della sua marina diventa la parafrasi degli equilibri politici, strategici ed economici del pianeta, in particolare in quei 60 anni che seguirono la sconfitta di Napoleone. Unione. Si costituì allora quella che venne chiamata la Pax Britannica, paragonabile in qualche misura soltanto alla dominazione di Roma imperiale, che comunque fu più vasto di quello inglese. In quel periodo di Pax Imperiale si affermò il commercio libero internazionale, ma non soltanto, furono tre infatti gli elementi di quella pace, e cioè una forza navale globale adeguata, un impero formale in espansione che offriva porti alla marina e centri nevralgici di potere, insieme a un impero informale molto più vasto, e una rivoluzione industriale, conclude, che inondava di prodotti il resto del mondo, attraeva vasti territori d'oltremare nella propria orbita commerciale, incoraggiava un'enorme marina mercantile e metteva a disposizione la ricchezza materiale per supportare quelle grandi flotte. E uno degli esempi di questo strapotere fu la protezione che venne assicurata dalla marina britannica in quegli anni, per esempio all'attraversamento di Garibaldi dello stretto di Messina nel 1860, un evento che abbiamo ricordato pochi giorni fa. L'apoteosi più spettacolare della potenza della marina britannica fu naturalmente l'anniversario, anzi il sessantenario del regno della regina Vittoria, quando il 26 giugno del 1897, ricorda Kennedy, 165 navi da guerra britanniche, inclusi 21 corazzate e 54 incrociatori, si esibirono alla presenza della regina. È proprio la regina Vittoria dedicata alla biografia di Richard Newbery, intitolata appunto La regina Vittoria, pubblicata da Claudiana, 116 pagine, 9,50 euro, tradotto da Erika Scroppo. Questa è una scintillante storia di questo simbolo dell'impero britannico, e il libro si conclude col riferimento appunto ai festeggiamenti del giubileo di diamante della regina Vittoria nel 1897. E quando si ebbe la prova che fu il mare e non la terra, scrive l'autore, che rese questo impero potente e insieme inconsistente come le onde su cui la Britannia regnava, come recita quello che è considerato il vero inno nazionale e che adesso ascoltate. Una delle storie più famose della marina inglese è l'ammutinamento del Bounty, che fa da sfondo al romanzo di John Boyne, che è un autore irlandese, Il ragazzo del Bounty, pubblicato da Rizzoli, 504 pagine, 21 euro, ed è tradotto da Roberta Zuppet. Qui abbiamo un ragazzino che viene quasi costretto nel 1787 a imbarcarsi sul Bounty, dove sarà testimone delle esperienze dell'equipaggio del famoso ammutinamento, nel quale il ragazzo prende le parti del famoso capitano, del crudele capitano Bligh, che seguirà. Egli non nasconde la comprensione, se non la simpatia, per il capitano, che appunto seguirà assieme a pochi altri uomini quando egli verrà abbandonato in mare dagli ammutinati. E un altro libro di storia marinare è quella di Roger Crowley, che è uno storico inglese, Imperi del mare, dall'assedio di Malta alla battaglia di Lepanto, è pubblicato da Bruno Mondadori, 338 pagine, 28 euro, tradotto da Francesco Sabasardi. E qui affrontiamo una pagina remota della storia d'Europa, parliamo infatti di quel periodo che va dal 1521 al 1571, che però si rivelò decisivo. La posta in gioco infatti era allora il controllo del Mediterraneo, dove secondo l'autore uno tra i più feroci e caotici scontri della storia europea ebbe luogo, la lotta tra Islam e Cristianesimo per il centro del mondo, una guerra di lunga durata. Questa guerra si giocò prima a Rodi, che fu conquistata da Solimano nel 1522, a Malta, dove i cavalieri resistettero all'assedio, e infine a Lepanto, dove si consumò l'epilogo di uno scontro secolare. Crowley ci dà una ricostruzione molto avvincente di quel cinquantennio, e in molte pagine, soprattutto quelle dell'assedio, sembrano davvero pagine tratte da un romanzo storico, ma la qualità storica del libro è indiscutibile. Per questo il libro è stato molto ben recensito all'estero. Particolarmente interessante è la descrizione dei contrastanti interessi delle varie potenze cristiane, che solo in extremis riuscirono a mettere insieme le forze per affrontare insieme il pericolo che veniva dall'esterno. Sentite per esempio questa pagina su Venezia, che come è noto manifestò il maggiore interesse a tenere buoni i turchi per continuare con loro i propri commerci. Nessuno si muoveva più cautamente all'ombra del potere dei veneziani. La Repubblica, che lottava per sopravvivere sulla frontiera sempre più ristretta fra Istanbul e Madrid, era sempre incerta tra commercio e guerra. La sua posizione le assegnava un ruolo ambiguo, quello di limite tra due mondi che non era né terra né mare, né est né ovest. Fungeva da interprete tra l'uno e l'altro, e da entrambi era trattata come un agente doppio. Nessuno investiva tante energie nell'osservazione e nella comprensione del Gran Turco, o nella connivenza con esso. Nel dedalo di corridoi sotto Palazzo Ducale, un attivo segretario monitorava le intenzioni ottomane. Migliaia di pagine di memoranda, rapporti, informazioni di carattere internazionale fluivano dalle penne veneziane. In pari tempo, i diplomatici della Serenissima lavoravano incessantemente per acquietare il loro vorace vicino, vezzeggiando, lusingando, divertendo i sultani ottomani, corrompendo ministeri, elargendo informazioni e ricchi donativi, e spiando. Un incessante flusso di messaggi in codice, compilati da sudditi della Repubblica residenti a Istanbul, giungeva a Palazzo Ducale su galee da carico e rapidi brigantini, interpretando la politica di palazzo, i movimenti della flotta, le voci di guerra. Sfacciatamente, i veneziani informavano entrambe le parti in obbedienza a sperimentate massime. «È meglio trattare tutti i sovrani nemici come amici», consigliava un consumato consigliere politico, «e tutti gli amici quali potenziali nemici», un principio che Venezia seguiva alla lettera. Al Papa, i sudditi della Repubblica si presentavano come la frontiera della cristianità, al sultano come partner mercantili e amici. Nel 1568, quando Filippo nominò il fratellastro Don Giovanni d'Austria al comando della sua risorgente flotta, Venezia inviò melliflui messaggi di congratulazione, ma tenne perfettamente informata Istanbul delle iniziative del re. E a questo punto... Il confettino. Avendo parlato di impero britannico, riandiamo a Londra con il titolo appunto Nicky e il mostro del Tamigi. È un libro che viene pubblicato in una collana del Touring Club dedicata ai ragazzi che viaggiano. Questo libro è di Maria Grazia Bertarini, 126 pagine, 7 euro, ed è illustrato da Sandra Bersanetti. Nicky è una ragazzina, spesso in viaggio con i genitori, che sta affinando in questi viaggi delle capacità di detective che ora mette alle prove in una Londra infestata da un mostro misterioso. E adesso le informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo adesso a un libro insolito che ci fa scoprire il gusto dell'architettura che decade, dell'architettura che invecchia e del tempo che appassisce. Lo troviamo questo tema nel libro di Roberto Peregalli, Luoghi e la polvere, sulla bellezza dell'imperfezione, pubblicato da Bompiani, 156 pagine, 16 euro. Roberto Peregalli è un famoso architetto milanese che ha lavorato in molti edifici anche pubblici, soprattutto al restauro degli interni, e in questo libro, che è inframmezzato da molte foto che gli stesso ha scattato, vuole appunto fare la lode del tempo che passa, la lode di un'architettura e di una bellezza che può permettersi anche di impolverarsi e di appassire senza perdere di fascino, anzi mantenendo sempre più fascino, un fascino questo al quale spesso si attenta con dei restauri troppo drastici. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Roberto Peregalli. Buongiorno, Toccaruba. Nel suo libro lei parla di nostalgia che si appropria di oggetti e di luoghi. Sembra quasi il suo libro un invito a rispettare le cose per cosa sono e per cosa sono diventate. E c'è anche qualche polemico accenno ai restauri o a certe forme di restauro che si fanno oggi. E i restauri vanno per la maggiore. Come mai questa prudenza da parte di un architetto? Ma la prudenza è determinata dal fatto che credo che i restauri sono senz'altro utilissimi per salvaguardare i monumenti e le opere. Credo che però il libro, quello su cui voleva porre l'attenzione il libro, era soprattutto il fatto che non esistono solo monumenti con la M maiuscola, ma esistono luoghi, e i luoghi possono essere belli per molte ragioni, non ultima il fatto che il tempo li ha modificati. Allora, il problema è che spesso nei restauri si fa la stessa, si pratica la stessa, diciamo, legge, sia se l'opera è un capolavoro come la Cappella Sistina, sia se è una piccola pieve in collina. È che io credo che le cose vadano, perché magari la piccola pieve in collina può essere molto, molto affascinante, anche se pur essendo puntellata, se ha dei problemi di consolidamento, ma lasciandola un pochino anche alla sua invecchiamento. E se invece viene riportato ogni tipo di lavoro, di facciata, di casa, di luogo, di chiesa, insomma qualsiasi monumento, al anche non importante, al momento in cui è stato concepito, non è detto che quello sia il suo momento migliore. Io credo che in tutte, come anche nelle persone, non è detto che le cose appena nate siano più belle che non quelle mature. Io credo che la maturità esiste anche nelle opere. E riguardo alla polemica sul nuovo, è il fatto che credo che ci sia un rispetto che vada assolutamente tenuto, non in più adesso che esistono tutte queste nuove leggi sui piani casa, eccetera, eccetera, per tutto quello che ha una sua età. Io direi almeno un'ottantina d'anni, per cui tutto quello che ha un'ottantina d'anni, anche se è una cascina, anche se è una cosa, un valore modesto, io credo che prima di abbatterlo vada riflettuto sull'energia che c'è stata a costruirlo, sulle persone che l'hanno vissuto, cioè i luoghi hanno delle energie che sono dentro di loro e che sono fatte da chi le ha abitati anche. Ecco, quando si parla di queste vecchie costruzioni, soprattutto degli impianti industriali da riqualificare, come si dice con brutta parola, lei nota come molto spesso in questi progetti di riqualificazione si metta dentro di tutto: auditori, aeroporti, stazioni, stadi, uffici, quasi mai case. L'abitazione, vero scopo del costruire, non è contemplata. Ecco, come mai questa fuga dalla casa? Ma io credo, il problema è che la fuga dalla casa, appunto, è anche in chi progetta. Cioè io credo che oggi c'è stato, e questo in un capitolo che un pochino che è il gigantesco, ne parlo un po', cioè credo che oggi una cosa che si è modificata molto anche rispetto ad architetti modernisti dell'inizio del Novecento è quello che l'attenzione all'oggetto piccolo, cioè a una casa, all'abitazione. Se vediamo l'Oos, Le Corbusier, l'Oos per esempio è passato alla storia per un piccolissimo bar a Vienna che è ancora in piedi e che viene preso ad esempio di una delle meraviglie di quell'epoca ed è un oggetto piccolissimo. Allora oggi invece un architetto è conosciuto, i vari Piano, Gehry, eccetera, compagnia bella, sono conosciuti sono conosciuti innanzitutto per la quantità, cioè sembra quasi che la televisione e l'ingigantimento di tutto quello che sono le cose mediatiche abbiano portato gli stessi architetti per farsi vedere a fare delle cose sempre più grandi. Leon Battista Alberti faceva delle cose piccole, nel Rinascimento si faceva, appunto, Cellini ha fatto una saliera che è passata alla storia, cioè non è detto che bisogna fare per forza degli oggetti giganteschi, per cui credo che anche in questa cosa gli aeroporti, le stazioni, sono diventate un pochino la cosa importante da progettare, il museo, e in più sono luoghi pubblici, cioè c'è questa cosa un po' populista per cui tutto quello che è pubblico ha un valore, quello che è diventato privato, che poi in fondo è la nostra vita, viene passato per una roba che per forza o è da ricchi o non vale più niente, e secondo me non è vero, perché la gente poi abita ancora oggi nelle proprie case, non è che abita nella stazione o negli aeroporti. E infatti lei parla di muscoli degli architetti a questo proposito. Grazie a Roberto Peregalli. Grazie, dottor Caruba, a presto. Buona domenica. Arrivederci, grazie. Il disorientamento che spesso provoca l'architettura contemporanea è molto simile a quella dell'arte contemporanea. Molti si chiedono dove siano i contenuti artistici di tante opere d'arte e addirittura sono convinti che per molti artisti non conti che cosa sappiano fare, ma soprattutto che cosa sanno vendere. Ma questa non è una grande novità, come dimostrano queste righe che vi propongo. La storica Petra Chu vede in Courbet, di fatto, il padre fondatore del moderno marketing artistico. Secondo la studiosa olandese, Courbet negli anni 40 e 50 dell'Ottocento concepisce e mette in pratica un insieme di accorgimenti e stratagemmi finalizzati a promuovere pubblicamente le sue idee, le sue opere e, non per ultimo, la sua immagine personale. Egli intuisce già allora il ruolo importante che possono assumere i media, nella sua epoca esclusivamente la stampa, nel mercato dell'arte. In quest'ottica, Courbet si accorge che per scuotere l'interesse dei media, le opere devono avere qualcosa di inusitato, di fuori del comune. Non solo. Egli si rende conto che a tale scopo le opere non devono presentarsi isolatamente, bensì associate sempre all'immagine personale, altrettanto inusitate fuori del comune, del suo creatore. Ossia, legati all'immagine di un artista che si contraddistingue per il suo comportamento provocatorio, per la sua originalità dirompente, per la sua stravaganza o per i suoi modi irriverenti e spavaldi. Per dirla nell'attuale gergo mediatico, l'artista, se vuole meritarsi l'attenzione dei media, deve essere in grado di fare notizia. Altrimenti corre il rischio di non esistere pubblicamente, né lui, né le sue opere. Courbet, che ne è consapevole, si impegna con tutti i mezzi, leciti e meno leciti, a fare notizia, a essere sempre alla ribalta. Certamente una notorietà così congeniata suscita critica e irritazione, ma si tratta sempre di notorietà. È così quindi che Courbet diventa, secondo Petracciù, l'uomo più arrogante di Francia. Le righe sono tratte dal volume Arte Artefatti, che è un'intervista da Hans Ulrich Hobrist, curatore di mostre di musei internazionali, pubblicata da Feltrinelli, 80 pagine, 8 euro. Si tratta di un'intervista che era stata iniziata nel 2006, che non era stata pubblicata e che adesso viene ripresa, nella quale Maldonado manifesta la ricchezza della sua attività tra design, sociologia, arte, architettura, ma anche, dice il curatore, comunicazione, informatica, sociologia. Una ricchezza, spiega l'architetto Maldonado, dovuta la propria tendenza a sfuggire all'etichetta e al cartellino di identificazione. Di un altro grande design, Ettore Sozzas, esce una sorta di taccuino che raccoglie alcune rubriche che egli aveva curato sulla rivista Domus tra il 2003 e il 2006 sotto il titolo Foto dal finestrino. E questo è il titolo del volume che raccoglie questi scritti, è pubblicato da Adelphi, 76 pagine, 8 euro. Si tratta di una foto scattata dall'autore e di un breve, spesso brevissimo commento da tutte le parti del mondo. Per esempio troviamo una donna fotografata in attesa con un enorme canguro di peluche all'aeroporto di Auckland e accompagnata la foto da questo commento di Sozzas. Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni alle domande oscure che non avranno mai risposta, e più la modernità produce insopportabili solitudini. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi ricordo che sul sito www.radio24.it potete sempre ascoltare le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.